marmellata, inizia la giornata. Ma se ci aggiungi rock and roll, diventa una figata. Ehi, ehi, ehi, c'è qualcuno là fuori? Qui negli studi di Rock FM, lentamente, arrivano i pezzetti della nostra redazione. Spadino, con due occhi davvero uomo, è in console. L'Ariele in cera perfetta, è pronto, ciao, eccomi qua. Manca Roberto Fricantoni e si fa il festino anche stamattina. Martedì 13 novembre. La colazione si chiama pane, burro e rock and roll ed è la 128esima volta che ve la serviamo. Eccola che arriva. Allacciate le cinture di sicurezza e non scrivete messaggi al contrario, grazie. Pane, burro e rock and roll. La tua colazione rock. La migliore in circolazione. Pane, burro e rock and roll. Vi tiriamo per le orecchie fino alle 9 del mattino, se ce la facciamo. Ma gliela famo. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Io. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Conviene e fa bene la colazione che dà assuefazione. Oh. Oggi arrivo in radio con un sacco di regali, che carini che siete. Il primo ringraziamento assoluto va al mitico Paolo, il nostro fumettista di riferimento, che ci invia un disegnino del topo rogna e del topo frigo, niente male. Le nostre cavie opinioniste, che spesso e volentieri intervengono in trasmissione, sono diventate anche un fumetto. In realtà già in qualche modo erano diventate fumetto sul nostro spazio su internet, che vi segnalo sempre, e anche questo fumetto entro pranzo, diciamo, lasciateci finire la trasmissione, poi ci pensiamo, lo pubblicheremo su myspace.com/paneburrofm, dove ogni giorno risentite pezzi della nostra trasmissione. Accomodatevi, mettetevi comodi, ma sì, dai, oggi non andateci al lavoro. Restate con noi e gustatevi tutta la trasmissione, vi va? Così, bigiamo oggi. Ma sì, dai. Summertime Blues. Si inizia con Eddie Cochran. E via. I'm gonna raise a fuss, I'm gonna raise a holler. About a working on summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says, no die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you want to use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, yeah. Sky, ga, ga, ga. Ga-da-ga-gow, Io intanto mi alleno per fare il musicista rock con la bocca, che non si sa mai, visto che la carriera, insomma la mia carriera da punk rockstar non è decollata proprio così come immaginavo. Io lavoro sul diventare un musicista rock con la bocca, che non si sa mai. Tra l'altro so per certo che anche molti di voi si stanno allenando. Settimana scorsa abbiamo programmato un jingle promozionale per un provino e a giorni posso garantirvi che inizieremo a sentire le vostre prime proposte. Non tiratevi indietro, diventate anche voi musicisti rock con la bocca. Come fare? Basta iscriversi al nostro servizio seguendo le nostre coordinate. E ne approfitto per ricordarvi allora un numero di SMS: 335 100 77 77, e una casella di posta elettronica che risponde all'indirizzo ariel@radiorockfm.com. Dicevo, non mandate messaggi SMS scritti al contrario, perché non riusciamo a leggerli. Apprezziamo la citazione di una nuova rubrica andata in onda ormai un paio di puntate fa, che non so se voi ascoltatori della prima ora conoscete oppure no, quindi magari non ve la svelo, perché può essere che grazie ai magheggi del buon Spadino in regia prossimamente la si possa far sentire anche a voi della prima ora. Sicuramente voi della prima ora vi siete persi un aiuto. Cos'è aiuto? Beh, è Help dei Beatles, è fatta in italiano. Se i Beatles fossero nati a Cassano Magnago avrebbero cantato aiuto. Gliela fai sentire oggi, Spadino? Ma anche no, volendo, eh. Gliela vuoi far sentire oggi? Va bene, allora gliela faremo sentire quest'oggi. È martedì! Diamo i numeri del lotto oppure no? Sì, se no la sciura Carla si arrabbia, quindi sentiremo anche Carlo. E Freak, eccolo lì, Freak, che varca la soglia. Preparati per l'almanacco, barbone! Intanto Ocean Blue. Ehi, prima il blues dell'estate. Adesso un bel oceano blu. Sì. Pane, burro e rock and roll dell'inverno, ce ne infischiamo. Wake up. I don't think you can. I don't. martedì vuoto, un martedì triste, oppure preferireste un martedì allegro, solare, gioioso? Beh, noi ve lo serviamo così, perché c'è Roberto Fricantoni, una ne pensa, cento ne fa! Ah, eccomi qua, un saluto a tutti e un saluto al grande Ariele che ieri ha compiuto gli anni! Grazie, doveva farmeli ieri gli auguri, non oggi. Vabbè, ma oggi è il 13, un giorno particolare. Ah sì? Perché? Sì, perché il 13... La cabala. Il 13 per la cabala è un giorno assolutamente speciale. 13 e 17. Ha notato, guardi, non la faccio parlare, sì. La interrompo perché mi sta a cuore dire che spesso negli alberghi non c'è né la stanza 13, maledetti, né la stanza 17. E lei la vorrebbe? Sì? Sì. Io sceglierei spesso la 17 e anche la 13. Le piacerebbe invece fare un almanacco del giorno che fu? Ma naturalmente no! No, immaginavo, allora inizio io. Era il 13 novembre del 1960 quando un certo Sammy Davis Jr. sposa May Britt. Il matrimonio tra l'artista di colore e l'attrice svedese desta scalpore perché le unioni interrazziali sono all'epoca vietate in 31 stati su 50 degli USA. Era il 60. E questo mi fa riflettere. Rifletta. Questo mi fa riflettere perché nella civilissima USA, come ha appena giustamente detto lei, Ariele, 31 stati su 50 che praticassero appunto il razzismo in maniera così esplicita, forse l'Italia in quel periodo era messa peggio, quindi sì. Dobbiamo solo tacere, ma insomma, ma intanto prendiamocela con gli Stati Uniti, che fa ma sempre esatto, bene. Esatto, e comunque le cose sono poi migliorate. 1990 viene scritta la prima pagina conosciuta del World Wide Web. www. Oh, vedo che lo dice con impegno. Lei come si trova col www? Ma praticamente come a casa, insomma, lo cavalco quotidianamente e posso dire che mi trovo bene, lo uso anche in bagno, lo porto anche in stanza da letto. Senta, lo indosso volentieri. Con una notizia che le piacerà molto, sempre il 13 di novembre e sempre nel 1990, Patricia Boughton intenta un'azione legale nei confronti di Rod Stewart, affermando, senta qua, che una palla da calcio lanciata da Rod durante il concerto di Pinecone Music Theater le avrebbe danneggiato il tendine del dito medio, tra l'altro, rendendo il sesso fra lei e il marito un po' difficile. Questa è la motivazione. È una motivazione molto interessante. Io non vorrei essere nei panni del giudice che avrà dovuto emettere il verdetto. Non c'è dato sapere se Rod Stewart ha perso o vinto la causa. Infatti. Sguinzaglieremo la redazione a scoprirlo. Lei ha mai ricevuto lamentele per oggetti lanciati sul pubblico? No, perché me li hanno rilanciati, restituiti immediatamente. Le hanno mai spaccato il dito medio? Beh, ci hanno provato più volte e devo dire quasi, ma non del tutto. Ottimo. Questo capita il 13, sa? Non a caso queste cose accadono il 13. Lo sapevo. Tira, and hands. I'm 18 and I like it. Sono diciottenne e mi piace. Così, ricordando ancora il mio giorno Natale di ieri, ho compiuto 18 anni, adesso diciamolo, non nascondiamoci dietro un dito, ma occupiamoci di altre problematiche di questa trasmissione. Non chiederti cosa pane, burro e rock and roll può fare per te, ma cosa tu puoi fare per pane, burro e rock and roll. E Carlo ben lo sa cosa fare, vero Carlo? Sì, oggi veramente una cosa esagerata. Carlo, solitamente ci dai i numeri del lotto. Mi raccomando, dalli bene, che non vorria mai che la nostra signora Carla si arrabbi. No, tranquillo, okay. Oggi c'è un bel termine da giocare che ha un po' di esoterico, misterioso. Aspetta, insomma. Aspetta che spadino sull'esoterico. Ah, eccolo qui. Morca vacca. Allora, da quello che ho intuito ieri sera in Rai, alla trasmissione Voyager, presumo. Sì, esattamente. Si sono occupati della teoria che circonda, della leggenda che circonda i Beatles, leggenda che vorrebbe Paul McCartney morto. Precisamente, esatto. E quindi dei simboli esoterici che i Beatles hanno inserito nelle loro copertine, nelle loro tracce e quant'altro. Precisamente, nell'arco degli anni. Carlo, perdonami, cosa che noi di Pane, Burro e Rock and Roll avevamo già ampiamente trattato, ma ci fa comunque piacere che la televisione di Stato parli dei Beatles. Precisamente, così. Esatto. Non buttiamola in polemica subito, che sennò... No, infatti, è stata bellissima comunque la trasmissione, veramente lascia folgorati vedere certe cose. Quindi tu hai scelto una tripletta, un terno dedicato alla presunta morte di Paul McCartney. Precisamente, sì. Dacci sti numeri. 4, i Beatles, ovviamente. Perdonami, ma sì. Su quale cabala sei andato a trovare che i Beatles... No, 4 è solamente riferito al fatto che loro sono 4. E Fab Four, bravo, giusto. E poi il 28 e il 51, che sono i due numeri misteriosi, appunto, che trattava la trasmissione. Non so se dover accennare a cosa si riferiscono. Sì, no. Qualcosa... Sì, credo sia. Allora, il 28 deve essere inserito nella targa del maggiolino della copertina di Abbey Road. Precisamente. Quindi, esatto. Nella targa si legge 28 if. Esatto. E quindi si ipotizza che il significato è: McCartney avrebbe 28 anni se fosse ancora vivo. Precisamente, esatto. E 51 invece è il numero inserito nella stessa targa nel disco ripubblicato poi da solista da Paul McCartney, con scritto 51 if, con lo stesso significato, 30 anni dopo. Esatto, dove c'è lui che riattraversa la stessa strada, però da solo, questa volta non in compagnia degli altri tre. 4, 28 e 51. Vi ricordiamo che Carlo li gioca una volta sola e non vinceremo mai. Le nostre speranze adesso vanno su Carla, che secondo me li gioca sempre. Speriamo vinca almeno lei. Okay. Ok? Va bene. Ciao Carlo, buona giornata. Thank you. amatissimi Pixies con Caribou, o meglio Caribou. 7:22 minuti primi, questa è la colazione di Rock FM, benvenuti e benvenute. Tireremo dritto fino alle 9 del mattino, scusate, mando giù, ma qui è stata... mando giù, nel senso. Ho dei problemi a parlare, ma perché si è presentato in radio il vostro bluesman di riferimento. Cosa che ha fatto sì che nello studio della diretta adesso sono completamente solo, perché sono tutti di là a festeggiare con paste, pasticcini e quant'altro. Un saluto a Fabione Treves. Vi ricordo, a chiunque là fuori, se mai vi sentite così la voglia di passare a trovarci con qualche regalo culinario, fate pure, Noi vi accogliamo sempre a braccia aperte. Qualche saluto, dai, un abbraccio al Fa, al nostro cuoco metallaro. Parto da casa alle 5:30 per andare al lavoro e noto con orrore che tutti i lampioni crepuscolari sono spenti. Attenzione, torniamo con la base di prima, ecco, bravo. Oscuro presagio o comune tirchio? Credo comune tirchio. Saluti a Nora che segnala, anche lei sveglia alle 5:30, quindi c'è un gemellaggio. Luminarie di Natale presenti a Livorno. A proposito della nostra rubrica della musica rock con la bocca, che mai rubrica fu più foriera di battute da parte dei nostri radioascoltatori, come si dice dalle mie parti, meglio con la bocca che con qualcos'altro. Un saluto a un autista fiorentino, Vittorio da Genova. Non sarà rock, ma quando guardo il vuoto penso alla mia Jessica, l'avevo appena ritrovata e l'ho subito persa. Dateci la vostra benedizione per farla tornare, Vittorio. Noi più che strombazzare non possiamo fare, provaci anche tu. Mi è venuta anche la battuta. Ciao Gian, buon compleanno. Un saluto al mitico 110, che ci ha fatto un regalo anche lui, che prossimamente vi faremo sentire, perché è un regalo musicale. Ciao Beline, compiangiamo i topi di magazzino che hanno la radio rotta. Ciao ragazzi. E se John Lennon e George Harrison fossero vivi? Firmato Lorenzo. Ma oggi che l'abbia presa la mattina esoterica, facciamo la puntata esoterica, ma potrebbe essere una puntata 128 un po' così. Ma what a drag it is getting old. Kids are different today, I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she finds a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. Don't appreciate that you get tired.